Ci volle molto a fare, cioè connettere o a fare, diciamo, un'analisi della situazione in cui si può connettere la povertà al carcere, perché infatti lei ci viveva proprio nel contesto, non si pote cioè non poteva. Non poteva berla la propaganda in cui si mostra tutti questi criminali come dei mostri, come della gente che vuole soltanto sgozzare o fare altre cose terribili all'altra gente. Si tratta invece di gente adolescente regolare che si trova in situazioni di povertà, di disagio. Di forte disagio e magari incade in un ciclo di abuso di stupefacenti, diventa tossicodipendente, cioè, ma si tratta in pratica di gente che lei o conosceva oppure che lei notava che era gente piuttosto regolare, non gente impazzita. E quindi con quel ragionamento e anche con il fatto che la stragrande maggioranza delle persone che la circondava mentre andava a visitare magari amici e amiche in carcere, era gente di colore, non ci voleva molto a vedere il razzismo di questo sistema e anche la spietatezza di questo sistema contro la gente povera. È così che infatti lei cominciò a interessarsi della questione del carcere, perché poi magari andando in questa o quell'altra libreria, subito le veniva di andare nella sezione che trattava delle carceri, della questione del carcere. Cominciò a leggere infatti dei pezzi, abolizionisti e trovò infatti un'articolazione delle cose che già lei in pratica sapeva, che conosceva, che aveva provato in maniera diretta o indiretta, cioè tramite amici, amiche. E allora non ci volle molto per coinvolgersi, ci fu anche dei gruppi a cui lei venne a conoscenza, per esempio l'Anarchist Black Cross, che sarebbe la Croce Nera Anarchica, che è molto, cioè nel Bronx del Sud, che per esempio ha questo programma in cui si cerca di diffondere libri a gente che è in carcere oppure a servizi, provvedere a servizi vari che non vengono forniti, cercare di lottare per liberare questa gente. E quindi cioè il concetto di abolizionismo era molto sensato già dall'inizio per lei, proprio perché quello che aveva testimoniato, quello che conosceva già benissimo. Nella pratica veniva raccontato anche in maniera teorica, cioè, quindi c'era un nesso molto molto forte. E andando all'università cominciò a leggere sempre di più sul carcere e il momento di diciamo, rivelazione avvenne quando scrisse un tema per un prof per quanto riguarda i movimenti di liberazione negli Stati Uniti che furono duramente soppressi negli anni 60, 70 e 80 tramite il programma di COINTEL, cioè contro COINTEL, il programma di intelligence contro i movimenti in cui si assassinarono esponenti diversi, per esempio dei Black Panther Party, eccetera. Comunque è una storia abbastanza conosciuta per chi la segue e non abbiamo il tempo di inoltrarci in quello, però voleva sapere che cosa successe poi con tutti questi prigionieri politici, com'è che si organizzarono, specialmente dopo la rivolta di Attica. E poi cominciò in pratica a notare che tutto quello che citava nel suo tema era da un'ottica maschile. Non si parlava affatto delle lotte di donne, anzi erano completamente assenti. E allora cominciò a indagare di più. E indagando, cominciò a vedere che non solo era assente un po' l'analisi dei movimenti nelle carceri delle donne, ma che anche le questioni più scottanti venivano completamente ignorate, che devono affrontare le donne, le condizioni particolari in cui si trovano molte volte. Per esempio la possibilità di perdere il proprio bimbo, la propria bimba, dopo 15 mesi, se il figlio o la figlia si trova cioè fuori praticamente fuori dalle sue cure, allora lo Stato può addirittura togliere il figlio o la figlia cioè tagliare in pratica questo rapporto tra madre e figlio, madre e figlia. In Italia se ne sa un po', ovviamente, di questa questione, che ci sono diverse leggi che vengono spacciate cioè salvare questo rapporto, mentre invece disgregano. Beh, qui disgregano in maniera veramente spietata. Poi magari una donna potrebbe cioè dover affrontare la possibilità di essere incatenata mentre partorisce. Cioè ci sono tutta una serie di condizioni che sono specifiche nell'esperienza delle donne in carcere, e che fanno sì che le rivolte delle donne tendono a essere diverse. La maniera di organizzarsi, per esempio, non è con lo sciopero della fame, ma in maniera molto più subdola, raccontando le storie da una all'altra, organizzandosi in modo ben diverso dagli uomini, perché le condizioni veramente sono ben diverse. E il rischio è molto più alto per quanto riguarda quello che hanno da perdere molte donne, in confronto a molti uomini. Non per esagerare la differenza, però ci sono differenze di genere che sono prodotte da questo sistema patriarcale, capitalista, che è razzista. Quindi bisogna mettere in contesto queste situazioni per capire perché ci sono queste differenze di genere anche nel movimento e nelle lotte stesse e nelle strategie stesse. Infatti poi eventualmente ha prodotto diversi scritti sul tema di chi. Tra cui Resistance Behind Bars, che speriamo moltissimo di avere tradotto in italiano in intero, e di averlo poi diffuso in Italia in traduzione. Resistance Behind Bars si tratta delle lotte delle carcerate all'interno delle carceri stesse, cioè la resistenza dietro le sbarre, il titolo del libro, in cui si racconta molto di quello che abbiamo discusso, di cui abbiamo parlato in questa conversazione. C'è uno scritto che poi è stato tradotto, non si sa da chi, lo ringraziamo o la ringraziamo, non sappiamo di chi si tratta. Di parte del libro che si trova in rete, e forniremo il lancio per accedere a quello scritto. Adesso chiedo un'altra domanda a Vicky, poi concludiamo. What I've also been researching is the transformative justice, organizing that's been happening, because it's not enough to say we want to abolish prisons without actually having other ways in place that people can keep themselves and their communities safe, so for the like sort of like Vicky adesso sta facendo ricerca sulla questione della giustizia, come chiamano qui transformative justice, cioè come immaginare un mondo diverso in cui non c'è il carcere. Non è semplice, perché non si può dire aboliamo il carcere e basta, perché poi bisogna trovare anche alternative al carcere, e ce ne sono diverse, ci sono anche contesti diversi. Quindi lei sta facendo ricerca su questo tema. Perché ovviamente se uno cioè uccide qualcun altro, allora com'è che si agisce? Ovviamente il carcere non è una soluzione, però qual è la soluzione? Si può anche capire che, cioè, non è che si può dire alla gente, beh, è la sopravvivenza del più forte, e vada come vada. Cioè, presume che la maggior parte della gente non voglia vivere in un mondo di Mad Max, in cui uno uccide tutta la gente che può soltanto per sopravvivere. Un mondo del genere, io aggiungerei, è quello che è prodotto dal capitalismo, però questa è un'altra conversazione. I was gonna add, well, this is exactly, the Mad Max world is what is generated by capitalism, but that's another conversation. So I've also been doing work around that, and I continue to do work with women in prison and talk about their issues. I'm also working with a group of led by formerly incarcerated women called Women on the Rise, Telling Her Story, so or Worth, that's specifically working on. Non solo allora Vicky svolge le sue ricerche sulla questione delle rivolte, delle organizzazioni dietro le sbarre nelle carceri per le donne, ma è coinvolta anche in maniera diretta in una organizzazione che si chiama Worth, che sarebbe, se riesco a tradurre bene, donne, cioè Women on the Rise, telling her story. So instead of history, it's her story. Esatto, beh, questo è un gioco di parole inglese che devo spiegare. Allora, sarebbe donne in ascendenza, diciamo, donne in rivolta, diciamo, che raccontano le proprie storie. Allora, in inglese c'è un gioco di parole, perché history sarebbe come la sua storia in maschile, e allora loro fanno un gioco di parole mettendo il pronome possessivo her story, che sarebbe la sua storia in femminile. Questo ovviamente non si riesce a tradurre molto bene, o semplicemente in italiano, senza capire il contesto anglofono. Ebbene, allora questa organizzazione si propone di condividere, non solo di condividere storie, le esperienze, testimonianze varie di tutte quelle che sono coinvolte, e di coinvolgere anche altre recentemente liberate e anche carcerate stesse, ma anche di avere un'azione propositiva di queste donne che sono riuscite a sopravvivere al carcere. E in pratica formulare delle politiche non solo di riforma carceraria, cioè per combattere questi abusi, come per esempio l'incatenamento delle donne, la separazione da figli e figli e altri abusi istituzionalizzati, ma e cioè anche poi ben al di fuori dei discorsi di vari, tra virgolette, esperti legali, eccetera, che in pratica poi servirebbero i loro interessi più che quelli delle ex carcerate, ma invece propongono di fare ben altro, cioè di portare avanti delle proposte per cambiare le carceri da un'ottica ovviamente abolizionista, in cui la mira, cioè, finale è l'abolizione completa del carcere per tutte e tutti. E quindi in vista di questa abolizione, eventuale abolizione, cioè si lotta per questa o quest'altra riforma, senza incadere nel tipo di riforma che poi viene utilizzata per introdurre altre carceri, oppure altri aspetti del carcere che sono magari un pochettino meno abusivi, però si tratta lo stesso di carcere. Per esempio Vicky cita le nuove leggi, i nuovi poteri che la polizia adesso detiene per quanto riguarda i controlli per la strada. La polizia adesso può fermare chiunque e dare, in pratica, fare un controllo su tutto il corpo e soltanto per magari qualsiasi sospetto di chissà che cosa. E c'è un grande movimento contro questa nuova legge a New York, e Worth, cioè il gruppo con cui è coinvolta Vicky, propone pure di combattere questo tipo di legge, perché rientra nella lotta contro le carceri, perché infatti questo tipo di politica comporta la carcerazione di moltissime persone, specialmente gente di colore che vengono fermate molto più sovente. Questo è stato anche comprovato da diverse ricerche, che la stragrande maggioranza di quelli che sono fermati per i controlli anche cioè, intimi sono persone di colore, e molte volte sono anche messe in carcere per aver trovato, cioè, si suppone, questa o quest'altra droga, chissà che cosa, o qualsiasi altra prova, presumibilmente prova di qualche crimine in atto. Allora, combattere contro questo tipo di legge significa anche combattere contro il carcere stesso, perché questo è un'altra componente del grande arsenale di cui dispone lo Stato per reprimere la gente e per sbatterla in carcere, per controllare in pratica la gente all'interno del territorio. E quindi questa è una delle idee che spingono questa organizzazione, ma anche più nello specifico combattono per non solo per eventualmente liberare tutte e tutti dal carcere, specialmente con focalizzandosi sulle questioni che devono affrontare le donne in carcere. E ce ne sono 115.000 poi negli Stati Uniti, dei 2,4 milioni. Ma però si tratta anche di combattere gli abusi, per cercare di almeno temporaneamente oppure in maniera più definitiva in pratica salvare molte donne da condizioni orrende in cui si trovano molte volte, degli abusi che avvengono nelle carceri, che anche se non aboliscono le carceri stesse, aiutano almeno nel presente di migliorare le condizioni di vita delle donne adesso in carcere, in questioni che purtroppo nel movimento ancora vengono ignorati. Thanks so much. Yeah, thank you. Ringrazio tantissimo Vicky per la sua generosità, per averci parlato in maniera tanto dettagliata delle condizioni in carcere, della storia di tutt'altro, e ringrazio voi per averci ascoltato, e spero che sia stato utile a capire di più la situazione statunitense per quanto riguarda le carceri, e che sia qualcosa che sia anche utile per quanto riguarda la lotta contro il carcere anche in Italia. Con questo concludiamo, e buona libertà a tutte e a tutti.